l'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Cappellucci. Da Lucia Cappellucci, buongiorno a tutti e benvenuti all'eco del silenzio. Dopo settimane in cui mi sono occupata prevalentemente del terremoto, torniamo a parlare d'altro, anche perché purtroppo di notizie silenziose ce ne sono sempre moltissime. Da Francamente, il blog senza barriere di Franco Bonprezzi su vita.it del 15 giugno 2012. A chi interessano i disabili? Di Franco Bonprezzi. 3.000 in corteo a Milano, con forza, con gioia, con grinta, con fatica. L'Ede Fund riescono a realizzare un'impresa titanica e anche rischiosa. In caso di insuccesso, comunque di scarsa partecipazione, il tonfo avrebbe avuto ripercussioni micidiali sulle battaglie in atto, non solo in Lombardia, ma in tutta Italia, per dire no ai tagli lineari e gravissimi al fondo sociale, comprendente l'azzeramento del fondo per la non autosufficienza. La risposta in larga parte è spontanea, anche se la potente spinta organizzativa di alcune associazioni di Lede di Fund, in particolare ANFAS, WILDM, AMMIC, WIC, si è fatta sentire, ha superato le aspettative della vigilia, tanto da indurre l'assessore regionale Boscagli a ricevere una delegazione di Leda, Fund e Comitato per la Vita Indipendente e ad annunciare che entro luglio sarà reintegrato con ulteriori 30 milioni il Fondo Sociale, raggiungendo quota 70 milioni, quella di un anno fa. Chissà perché in questi casi l'inflazione non viene mai conteggiata. Mi domando come mai il mondo della disabilità faccia così fatica a essere ascoltato e soprattutto a vedere esaudite legittime richieste basate sempre su leggi vigenti, scuola, lavoro, mobilità, assistenza sociosanitaria, vita indipendente. E come mai i media ignorino, con rare e meritorie eccezioni, manifestazioni come quella di Milano, tanto per non fare nomi, Rai e Mediaset completamente assenti. Una manifestazione di 3.000 appartenenti ai centri sociali, con tutto il rispetto, immagino avrebbe portato come corollario qualche decina di telecamere e un centinaio di fotografi, magari in attesa di scontri e di cariche delle forze dell'ordine. Un corteo colorato, civile, perfino musicale, di migliaia di cittadini di vario tipo, in carrozzina, non vedenti, sordi, giovani, anziani, disabili intellettivi, non interessa se non marginalmente, eppure dovrebbe. Una risposta viene da una cifra, colossale quante forse poco conosciuta. A fronte di una spesa nel settore sanitario di 17,5 miliardi di euro, in Lombardia per la sanità, il settore sociale vede il proprio bilancio incidere solo per il 7%. Cito l'interessante video intervista di Cristiano Gori su Lombardia Sociale. Insomma, ci aggiriamo attorno al miliardo di euro per l'intera regione. Vero che la spesa per i servizi alle persone con disabilità ricade, come competenza, principalmente sui comuni, i quali però, come è noto, sono con l'acqua alla gola. Battono cassa e sono anche bloccati dal patto di stabilità. Una variazione di spesa di 30 milioni di euro, e questo è il più evidente risultato monetario della manifestazione, comunque se ne parla a fine luglio, sembra davvero poca cosa rispetto alla montagna della spesa sanitaria lombarda. Non voglio infierire, in giorni nei quali il settore è sotto attacco della magistratura e dei media. Certo è che il meccanismo del finanziamento del settore sanitario è molto più articolato e forte, per lunga tradizione, anche di altissima efficienza, come ben tutti sappiamo. Ma dietro al settore sanitario si muovono interessi enormi, anche di tipo privato. Le multinazionali del farmaco, le industrie di attrezzature ospedaliere, i grandi immobiliari, le imprese di costruzioni, un esercito di dipendenti pubblici qualificati, solo per citare i più evidenti interlocutori dell'industria della salute. Il mondo della disabilità, invece, è strutturalmente povero e si basa sulla carne viva delle persone, sulle singole situazioni, sulle realtà operative dei servizi domiciliari, o di attività diurne o al massimo di strutture residenziali, che non sono comunque paragonabili ai grandi interessi degli ospedali e dei centri di ricerca. I diritti della salute, poi, sono diritti esigibili, mentre i diritti sociali dipendono ancora in larga misura dalla disponibilità delle risorse. In un periodo di crisi fonda come questo, l'attacco alle poche certezze conquistate in decenni di battaglia si fa dunque insistente e concreto, perché non vengono toccati interessi o poteri forti, tanto per usare un'espressione di moda. Non è un caso che l'unico momento nel quale si è parlato in termini di possibili nuove risorse per il settore della disabilità degli anziani, non autosufficienti, è coinciso con un convegno voluto dalle grandi compagnie di assicurazioni, con tutte le evidenti conseguenze, al momento per lo più negative. Il mondo delle persone con disabilità, e in particolare i familiari di persone non in grado di rappresentare se stesse o di essere autosufficienti. Vive questo momento con ansia e spesso con angoscia. Possiamo tranquillamente, si fa per dire, parlare di povertà indotta o addirittura endemica, non solo per i costi crescenti dei servizi non essenziali, ma anche perché molto spesso la famiglia diventa essa stessa disabile, con la dolorosa rinuncia a opportunità di lavoro e di reddito, con la necessità di aiuti di personale esterno, con poche agevolazioni vere, e anche quelle adesso messe pesantemente in discussione. C'è poi un aspetto non secondario della crisi e della mancanza di attenzione da parte dei poteri forti. A parte la lungimirante azione di alcune fondazioni, in Lombardia spicca certamente la Fondazione Cariplo, le associazioni delle persone con disabilità fatificano a trovare partner pubblici e privati, assieme ai quali costruire una nuova progettazione sociale, che non sia semplice e illusoria sperimentazione destinata a morire prematuramente, come una giovane pianta per una gelata precoce. Eppure la valutazione di efficacia e di appropriatezza delle prestazioni e dei servizi attorno alla persona passerebbe proprio attraverso la possibilità di coinvolgere in modo attivo e in un certo senso imprenditoriale l'intero mondo della disabilità. Le crescenti difficoltà del mondo della cooperazione sociale, ad esempio, costretto a ridurre la quantità per rimanere competitivo nella complessa fase dell'accreditamento dei servizi, dovrebbero farci riflettere su questa tendenza, che sembra irreversibile, a valutare tutto solo in termini di minor costo. Sono riflessioni persino dolorose, ma che penso debbano essere messe sul piatto di una discussione seria, leale, rispettosa della dignità e della forza di così tante persone per bene. Il mondo della disabilità se lo merita. I 3.000 di Milano lo dimostrano ampiamente. L'eco del silenzio. Silenzio. Ed ora una serie di notizie che a vario titolo riguardano ragazzi e bambini. Da www.vita.it, Bambini, un inferno chiamato Gaza, della redazione, 15 giugno 2012. Save the Children lancia l'allarme sulle condizioni dei più piccoli nella striscia, dopo 5 anni di blocco. L'unica fonte di acqua corrente disponibile a Gaza è terribilmente pericolosa perché contaminata da concimi e scorie umane. Con 1.700.000 persone ammassate in appena 365 km quadrati, di cui oltre 800.000 sono bambini, lo stato di salute per migliaia di persone è gravemente a rischio, a causa del blocco imposto nel 2007 al transito di merci e persone. Migliaia le famiglie impossibilitate ad acquistare o produrre derrate alimentari, ed il rischio di malnutrizione cronica resta alto, colpendo il 10% di bambini al di sotto dei 5 anni. L'anemia, solitamente provocata da deficit alimentari in particolare di ferro, affligge il 58,6% dei bambini in età scolare, il 68,1% dei bambini tra i 9 e i 12 mesi e il 36,8% di donne in stato di gravidanza. E quanto rivela Gaza Children Falling Behind, il rapporto lanciato da Save the Children insieme all'organizzazione Medical Aid for Palestinians, per denunciare le drastiche condizioni igienico-sanitarie di una popolazione messa in ginocchio da un duro embargo iniziato 5 anni fa. Su Twitter, l'hashtag è cancelletto End Gaza Blockade. I bambini di Gaza vivono in condizioni di prigionia, intrappolati in un lembo di terra avverso che gli impedisce anche solo di sognare un futuro migliore, dichiara Valerio Neri, direttore generale di Save the Children Italia. Dall'inizio del blocco nel 2007 è raddoppiato il numero di bambini al di sotto dei 3 anni curati per diarrea, perché costretti a bere un'acqua tossica e nociva. Le condizioni igieniche della striscia si aggravano progressivamente, al punto che anche una banale diarrea ormai è mortale per i bambini di Gaza. Il sistema di scarico delle acque, infatti, è stato completamente danneggiato durante l'operazione Piombo Fuso e gli impianti per il trattamento sono sovraccarichi o a corto di carburante. I pozzi neri destinati alla raccolta delle deiezioni sono situati in prossimità delle abitazioni e nei soli primi 2 mesi del 2012 3 bambini sono morti annegati nelle fogne a cielo aperto. Migliaia di famiglie sono costrette ad acquistare acqua da privati, ignare che spesso anche quella possa essere contaminata a superare di almeno 10 volte il livello di sicurezza consentito. Inoltre, gli altissimi livelli di nitrato contenuto nelle feci e nei concimi potrebbero causare anche alcune gravi forme tumorali e rappresentare una grave minaccia per le donne in stato di gravidanza. Per la popolazione esistono solo 2 possibili vie d'uscita per lasciare Gaza, ma occorrono permessi speciali per oltrepassare un confine costantemente protetto. Per questi motivi, ad oggi, soltanto 1/5 dell'attrezzatura necessaria a riparare il sistema di scarico ha valicato il confine, mentre il resto è bloccato e stipato nei depositi. I bambini di Gaza, come quelli di tutto il mondo, dovrebbero poter godere di diritti essenziali, sanciti dalla Convenzione ONU per l'infanzia e l'adolescenza, primo tra tutti il diritto alla salute, continua Valerio Neri. I numeri purtroppo raccontano tutt'altra realtà. Oltre all'emergenza igienico-sanitaria, dall'inizio dell'embargo nel 2007, 605 bambini sono stati uccisi nella striscia di Gaza, 2.179 quelli feriti durante i conflitti. La comunità internazionale ha l'obbligo politico e morale di intensificare al massimo gli sforzi per garantire quanto prima una maggiore sicurezza ai bambini, condizioni sanitarie umane e la fornitura di acqua potabile e sana. Inoltre il rapporto sottolinea come il 38% dei bambini a Gaza viva in povertà e ben 630.000 non godano degli standard di sicurezza alimentare. In media c'è un insegnante ogni 80 bambini e nell'anno scolastico 2010-2011 l'80% delle scuole pubbliche, pari a 311 su 392, ha dovuto assicurare un doppio turno per poter far fronte all'esigenza di scolarizzazioni di 230.000 bambini. Save the Children chiede ad Israele la revoca del blocco e la libera circolazione di persone e beni da e verso Gaza, West Bank e Gerusalemme. L'avvio e l'implementazione di progetti di riqualificazione sanitaria delle acque, con una pianificazione dei lavori chiara e puntuale, alle autorità palestinesi di agevolare la fornitura rapida di servizi sanitari e di materiale medico per l'intera popolazione. Alla comunità internazionale, un serio impegno per la definizione di interventi strutturali e strategie a lungo termine che contribuiscano a migliorare le condizioni di vita dei minori a Gaza, anche dopo la fase di emergenza. L'eco del silenzio. Da www.vita.it. Carcere. Più tutele ai figli dei detenuti. Della redazione, 15 giugno 2012. Le chiede l'associazione Bambini Senza Sbarre, insieme alla rete europea Eurochips, con due interventi mirati. Carceri aperte, parliamone. È la campagna di sensibilizzazione che vede impegnata nel mese di giugno 2012 l'associazione Bambini Senza Sbarre in collaborazione con la rete europea Eurochips sul tema dell'impatto della detenzione dei genitori sui figli. Sul sito www.bambinisenzasbarre.org è possibile firmare la petizione per chiedere maggiore attenzione e informazione su questi minori che spesso sono bambini invisibili, a rischio di discriminazione, esclusione e interruzione dei rapporti con il genitore in carcere. Il tema «Non un mio crimine, ma una mia condanna», scelto con Eurochips per la campagna europea di informazione, ben sintetizza il vissuto dei bambini che hanno un genitore in carcere. Spesso per la maggior parte delle persone il reato del genitore è associato al bambino che ne sopporta la condanna, in silenzio, a casa, a scuola e anche in carcere quando va a trovare il genitore, ha dichiarato Lia Sacerdote, presidente di Bambini Senza Sbarre. I bambini interessati sono 1 milione in Europa e 100.000 in Italia. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia italiano condivide l'iniziativa che prevede una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale, spettacoli e giochi, workshop e mostre di disegni presso le scuole. Bambini Senza Sbarre è un'associazione onlus che si occupa dal 1997 della cura delle relazioni familiari durante la detenzione di uno o entrambi i genitori, della tutela del diritto del bambino alla continuità del legame e della sensibilizzazione della rete istituzionale di riferimento e della società civile. Fa parte del consiglio direttivo di Eurochips, European Network for Children of Imprisoned Parents, rete europea con sede a Parigi presente in 15 paesi. È partner del Ministero della Giustizia DAP, di università italiane e straniere, dell'Istituto dei Diritti Umani di Copenaghen e del gruppo CRC. Da www.vita.it. Sangue, calano i giovani donatori. Del 14 giugno 2012. I dati del CNS in occasione della Giornata Mondiale. In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue di Shana Seul, Corea del Sud, l'appuntamento dal 2004 si tiene ogni anno in una nazione diversa, il Centro Nazionale Sangue ha divulgato uno studio sullo scenario della donazione di sangue nel mondo, con particolare riferimento ai paesi a basso indice di sviluppo e all'Italia. Né prima ancora oggi esistono molti problemi clinici legati alla disponibilità di sangue. In questi paesi, ad esempio, muoiono ogni anno 150.000 donne per problemi associati a parto e gravidanza a causa di carenza o assenza di trasfusioni sicure. Italia. Il direttore Giuliano Grazzini, che ha presentato lo studio, si è concentrato sul sistema trasfusionale italiano, degli obiettivi strategici e delle prospettive alla luce della legge 219 del 2005 e della pressante necessità di conseguire la piena conformità alla normativa di settore di matrice europea, la cui deadline su tutto il territorio nazionale è il 31 dicembre 2014. In Italia ci sono 1.733.398 donatori di sangue, 69,9% maschi, 3,1% femmine. Un numero in costante aumento dal 2001. Anche l'indice di donazione, numero di donazioni per anno nel nostro paese, oggi è più alto, 1,9 rispetto a 1,6 del 2008, dato conforme alla media europea, 1,922 circa. La percentuale dei giovani sul numero totale di donatori nel 2011 si attesta al 33,31%, 13-18 classe di età 18-25 anni, 20-13% classe di età 26-35. Numero ancora troppo basso, però soprattutto se si considerano in prospettiva i dati sull'invecchiamento della popolazione. Secondo un'elaborazione Censis su dati FIDAS e Istat 2011, tra il 2009 e il 2020 è presumibile che continueranno a diminuire i donatori giovani e, nel complesso, mantenendo costante il numero dei donatori per 1000 residenti nelle regioni e l'indice di donazione, è stimabile nel 4,5% la riduzione dei giovani donatori e nel 2,9% la riduzione complessiva di donatori di unità di sangue raccolte. La sfida che il volontariato in primis e il sistema a suo sostegno dovranno raccogliere sarà dunque quella di assicurarsi il cambio generazionale, non solo su fattori di emotività istantanea, ma attraverso una fidelizzazione consapevole verso la cultura del dono. Comincia da domani attraverso la premiazione del concorso Share Care, indotto da CNS Pubblicità e Progresso, un primo passo per intercettare attraverso nuovi linguaggi, e un'operazione di crowdsourcing, idee per rivoluzionare pacificamente ma incisivamente questo importante settore del volontariato. Sfida che naturalmente raccolgono Avis e Fretres, l'associazione volontari italiani sangue in occasione della giornata mondiale con lo slogan «Tanti colori per un unico dono». Ha lanciato un gran numero di iniziative su tutto il territorio nazionale, mentre Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue ha avviato una serie di eventi speciali rivolte alla sensibilizzazione e promozione della cultura della donazione del sangue e del volontariato associazionistico essa collegato. L'eco del silenzio. Silenzio. Concludiamo a questo punto con non una ma addirittura due buone notizie da www.repubblica.it. Aung San Suu Kyi ritira il Nobel del 1991, ancora lunga strada per la libertà. Dopo 21 anni la leader dell'opposizione birmana in Norvegia, questo premio ha aperto una porta nel mio cuore e ha chiesto la liberazione dei prigionieri politici. Del 16 giugno 2012. Oslo ha dovuto attendere 21 anni per ricevere il riconoscimento conferitole nel 1991 e mai ritirato per il timore di non poter rientrare in Birmania se ne fosse uscita agli arresti domiciliari come era ai tempi. A Oslo, davanti a una folla per due volte gli ha tributato una standing ovation, la leader dell'opposizione birmana Aung San Suu Kyi, emozionata ma sempre carismatica, vestita con un tradizionale completo birmano color lilla, è stata accolta da un minuto di applausi. Parlando di fronte al re della Norvegia Araldo, alla regina Sonia e a circa 600 dignitari, la signora ha attribuito al Nobel il merito di averla riportata alla realtà, quando era stata costretta in detenzione dall'allora giunta militare nel 1991, ma soprattutto di aver rivolto l'attenzione del mondo verso la lotta per la democrazia in Birmania. Questo premio Nobel ha aperto una porta nel mio cuore, ha detto San Suu Kyi, spiegando come il riconoscimento ai suoi tempi contribuito a darle la forza di continuare la lotta. Personalmente, ha detto la leader applaudita dalla platea, ricevere il Nobel ha ampliato la mie preoccupazioni per la democrazia e i diritti umani, al di là dei confini nazionali. Nel discorso di ringraziamento Aung San Suu Kyi ha sottolineato che la strada verso una piena libertà politica è ancora lunga per la Birmania. Le ostilità non sono cessate nel nord e anche nelle zone occidentali le violenze proseguono, ha spiegato il premio Nobel nel suo primo viaggio all'estero da 25 anni a questa parte. Suu Kyi, figlia del generale Aung San, eroe dell'indipendenza birmana assassinato da avversari politici, ha messo in guardia da eccessi di ottimismo sulle trasformazioni in corso nel suo paese, dove un governo aperto parzialmente ai civili continua a tenere in carcere molti oppositori politici. Ci sono ancora tanti detenuti in Birmania e abbiamo paura che il mondo si scordi di loro, dopo che i più noti sono stati rilasciati, ha aggiunto Suu Kyi, 66 anni. Ieri il premio Nobel era arrivata a Oslo dalla Svizzera ed era stata accolta da una folla in tribudio con balli e danze. La leader dell'opposizione birmana ha chiesto la liberazione di tutti i prigionieri politici del paese, preoccupata dal fatto che gli sconosciuti vengano dimenticati. Un prigioniero per reati di opinione è un prigioniero di troppo, ha dichiarato, sottolineando di essere pronta insieme al suo partito, la Lega Nazionale Democratica, a giocare un ruolo nel processo di riconciliazione nazionale che conduca dal regime militare alla democrazia. La leader democratica ha inoltre reso noto che sul terreno le violenze scoppiate nell'ovest del paese fra la comunità buddista e la minoranza musulmana non sono cessate, mentre nel nord proseguono anche combattimenti con i separatisti Kachin. L'ultima buona notizia invece riguarda direttamente l'Italia, da www.vita.it, ambiente, acque di balneazione, Italia prima in Europa, del 14 giugno 2012, qualità migliorata rispetto al 2010. L'Italia è il paese europeo con il maggior numero di acque di balneazione. Nel 2011 sono 5.549 le acque totali balneabili, 26,4%, di cui 4.902 acque marine, 33,71%, e 647 acque interne, 9,96%. Nella stagione balneare 2011, l'Italia ha riportato un netto miglioramento della qualità delle acque di balneazione rispetto all'anno precedente, con un incremento della qualità del 7,3% per tutte le acque, 6,6% per quelle marine e 13,1% per le acque interne. Lo dice il rapporto europeo 2012 sulle acque di balneazione, presentato ieri al Ministero della Salute. A livello europeo, le acque di balneazione dell'Italia sono le più controllate e hanno conformità ai valori guida dell'82,3% rispetto alla media europea del 77,1%. A partire dal 2013, a seguito della valutazione sulla qualità delle acque di balneazione effettuata al termine di ogni stagione balneare, le acque di balneazione saranno classificate in 4 classi di qualità sulla base dei risultati relativi a 4 stagioni balneari: eccellente, buona, sufficiente e scarsa. Anche per questa settimana è tutto, da Lucia Capparrucci un saluto e l'augurio di frenetiche letture. I contenuti di questa puntata sono disponibili all'indirizzo ecodelsilenzio.blogspot.com. L'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Capparrucci.